Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Il futuro è passato e non ce ne siamo nemmeno accorti. Yeah, lì si è. Non si è ben questo mega tu in mountain. 40, 38, sono dei numeri così alti che sarà difficile liberarsi di Renzi. Come gli italiani hanno dimostrato che non sono in vendita con una frittura di pesce, come diceva De Luca. Se ha preso il 42%, penso che non sia un brutto risultato, considerato che... Eppure la monarchia ha preso il 40%. Ah, non credo. Però ha fatto la Repubblica. Anche il sì. Il Partito Democratico deve tornare ad essere il Partito Democratico, essendo chiaro che non è il partito di Renzi, come scrivevano i giornali. Naturalmente Renzi nel Partito Democratico è una forza fondamentale, non è che io gli voglia togliere il suo spazio, diciamo. Veramente era lui che voleva rottamare gli altri. Spero che questa passione gli sia passata. Signori, eccoci qua alle 6:31 minuti. Guardate che adesso sta maturando il sogno del contropiedone, il contropiede renziano. Attenzione, quando ieri già lo dicevamo, priva di tutti questi soloni che parlavano di questo 40%. Ora, adesso, a scrivere tutto questo 40% a Renzi mi sembra un po' esagerato. Ricordiamo che c'è anche chi, pensate, c'è perfino chi è andato a votare in punta di Costituzione, cioè a dire mi piace o no la Costituzione, non me ne frega niente del governo. Perfino quelli ci sono, incredibile, perché in realtà era un referendum pro o contro Renzi. Gli italiani hanno capito questo: ti piace Renzi? Voti sì. Non ti piace Renzi? Voti no. Ma ci sono perfino, e quindi anche in quel 40%, quelli che hanno invece deciso: no, chi se ne frega, mi piace o no, mi chiedono di cambiare la Costituzione, io decido in base a quello. Quindi non è che possiamo dire tutto quel 40% è di Renzi, però su quel 40% potrebbe maturare l'idea del contropiedone Renzi, le cui dimissioni sono state congelate da Mattarella. Renzi che dice la stampa vorrebbe in realtà prendersi un anno sabbatico, fare una bella vacanza con la moglie Agnese, andarsene magari negli Stati Uniti un po' a studiare. Renzi che dice: incredibile, tutti vogliono restare attaccati alla poltrona, io che voglio andarmene non riesco, non so come fare. Oddio, veramente qua, cioè questa veramente è abbastanza incredibile, cioè ci sarà una porta anche a Palazzo Chigi da cui uscire, no? Cioè non è che è blindata con l'attack, prendi, ciao, grazie, arrivederci, ma il percorso istituzionale, raga, me ne vado. Se uno vuole, però vabbè, questo è. E poi ci sono quelli che esultano. Ci sono quelli che esultano. Ieri il nostro Lorenzo Nespoli, incredibile, cioè, è partito. Ha preso un treno, è andato a Roma. Ha detto: faccio uno scoop. Vado, voglio andare lì al CNEL a vedere. Ma che è sto CNEL? Il cui presidente è il signor Napoleone. Appena varcato la soglia del CNEL. C'era una canzone che si udiva, non lo so, erano lì tranquilli che stavano lì. Ah no, ha telefonato. No, pronto. Ma chi è questa? La musichetta. Siete dei cretini. La musichetta d'attesa. Ma sai, non lo so. Oh, io devo pagare un caffè, il che mi fa molto piacere. Secondo quel malandrino di Oscar Giannino, in realtà sono molto felice di aver perso solo per il caffè. A Stefania Cavallaro, solo per il caffè da pagare, buongiorno. Il caffè congelato. Che senso congelato? Perché no? Sì, è per forza. Caffè congelato. Finché non ci saranno, come dire, l'atto. No, esatto, no, ma ti ricordo, abbiamo scommesso e avevo detto che vinceva il 60% il sì, e ho azzeccato solo il 60%. Però ho sbagliato, come dire. Il 40 mi si ritorce contro. Oltre a Renzi, anche a te il 40 si ritorce contro. Va bene, insieme a Stefania Cavallaro, giornalista di Studio Aperto, abbiamo nostro Marione. Caro Marione, come va? Non sapevo che avevi postato il tuo solito acume politico col 60%, infatti, al contrario. 60. Non lo sapevo, però mi sarei approfittato. Va bene, va bene. Allora, Marione, questo è il momento. Cara Stefania, devi capire che Marione Adinolfi, insieme a pochissimi intimi, ha questa passione sfrenata per la politica. E adesso saranno mesi in cui si parlerà solo di legge elettorale, con tutti i metodi bulgaro. Per mesi abbiamo parlato del referendum. Ma no, c'è il metodo bulgaro, greco, il proporzionale, mamma mia, il maggioritario, il Senato, la Camera, Corte Costituzionale, sentenze, Italicum, Grechellum. Consultellum. Ma lo trovi bellissimo. Una rottura di coglioni che guarda... In 24 ore si sono ribaltate le posizioni, per cui c'è Grillo che odiava l'Italicum, ma adesso chiede l'Italicum pure al Senato su base regionale. Perché sa che vince. Renzi che ci ha detto per 3 anni che voleva avere una legge elettorale l'Italicum, in cui la notte si sapesse chi aveva vinto, che adesso chiede il proporzionale e rompe il ballottaggio, lo cancella dalla prossima legge elettorale. Ragazzi. Ora questa dialettica è fantastica. Per 3 anni hanno detto una cosa e in 24 ore tutte e due gli schieramenti ribaltano completamente la linea. Ma infatti finché la poniamo su questo piano, la capiscono tutti, perfino io. Quando entriamo nei tecnicismi di legge elettorale, il consultellum hai spiegato agli italiani come funziona il consultellum? Sì. No, lo spiega Stefania Cavallaro. Allora Stefania, hai 15 secondi per spiegare come funziona. Allora, il consultellum. Sì. Praticamente, se lo applichiamo al Senato, viene scelto col proporzionale, che praticamente salta il premio di maggioranza. Va bene, 25. Giusto? per me 25, non lo so. 21 è il solito professore Adinolfi, è quello un po' cattivo. Allora dobbiamo aprire il Parlamento, forza. Oggi l'intervista migliore è questa. Caffè, e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma forza, no Renzi, adesso non ti staranno più sopra a bere il caffè, tranquillo, ti saranno un po' più sereni a bere il caffè. Allora, a proposito di sereni, dopo vi faccio sentire una di Bersani. Beh, ragazzi, cioè, ci sono per me due cose che vi colpiscono. La prima è Mario Monti, oggi fa un'intervista a Mario Monti alla Stampa, dice: no, non hanno vinto i populisti, no. Cioè, capito? Allora, con la Brexit, sì, i populisti. Trump, sì, i populisti. Qui, no. Cioè, io questa intelligenza sempre in doppio petto, in loden, che pensa di interpretare il sentimento della gente quando l'ultima volta che è entrato in un bar sarà stato in via della Spiga, angolo via Monte Napoleone, proprio non la capisco, anzi non la sopporto più, devo dire. Ecco, questo sì, Stefania, dillo, questo sì che è bel populismo. Oh, il mio, dico. Secondo me, il tuo? Il tuo populismo, non so. Secondo me in questo momento più che il populismo c'è il dualismo, perché è stato bellissimo. Per cambiare non hanno cambiato, ci pensi? Sì, perché per cambiare il governo non hanno cambiato la situazione, e questa cosa mi fa pensare solo esclusivamente che veramente alla fine Renzi si è rovinato da solo, perché lui è stato il primo a fare una battaglia politica. Avevi in mente un'altra immagine, secondo me. Sì. Secondo me ti è venuto in mente un'altra immagine, poi ha rovinato da solo, diciamo. Se li è tagliati, ecco, diciamo, tecnicamente. Un pochino sì, ma adesso la vera legge del contrappasso, che potrebbe chiudere perfettamente il cerchio. Ma voi me lo immaginate se per caso richiamano Enrico Letta? No, ma ve lo immaginate? Dai, Enrico Letta, questo è uno scenario che non... neanche Mariona Dinolfi. Mariona Dinolfi, dimmi una roba sui populismi, ha vinto la pancia, ha vinto il populismo. No, Mario Monti ha detto stavolta no, siccome casualmente lui votava no, non... Ma è oggettivo che il voto italiano non sia paragonabile a Trump e Brexit, è un voto molto molto diverso. Oggettivamente non sono neanche convinto che Renzi si sia così rovinato, francamente. Lo scenario che si apre è uno scenario estremamente complesso, in cui Renzi ha una forza significativa, e non so se avete letto i giornali di oggi, ma si parla di elezioni anticipate. E certo, lui punta a questo. Quadro di elezioni anticipate. In un quadro di elezioni anticipate in primavera, Renzi è l'architrave del governo di coalizione prossimo venturo, ma è ovvio che sia così, cioè non vedo proprio dove sia lo scenario. Ma secondo te possono dire abbiamo quel 40% in fondo, puntiamo a quello? Perché non Lotti, possono Lotti dirlo, pare che dica così. Ovviamente quello che hai detto hai perfettamente ragione, molti hanno votato sì, molti, no? La percentuale ha votato sì. Diciamo in punta di diritto, dal punto di vista politico è indubbio che Renzi, avete notato che Alfano ha dato un'intervista al Corriere della Sera in cui si è allineato mostruosamente a Renzi, quindi sostanzialmente entra nell'alveo dello stesso tipo di operazione politica, quell'operazione politica, cioè l'operazione ho voluto fare la riforma, non me l'hanno fatta fare, presentata alle elezioni politiche, è una forza che vale come minimo il 35-38%, questo è un dato. E da lì forse vuole ripartire, cioè tentare il tutto per tutto. Se tu su quello hai uno schema di proporzionale, come stanno provando a costruire uno schema basato sulla proporzionale, quella è la forza. Sì, però io su questa cosa però dico, ha ragione. Adesso c'è, come ho twittato questa mattina molto presto, c'è questa mania per cui Renzi dovrebbe andare a emigrare in Congo. Voglio dire, ma cari italiani, ha perso perché era molto personalizzato questo, ma sarà libero di, se ci fossero le prossime elezioni, candidarsi e misurarsi con il grado di l'indice di gradimento degli italiani, non so, Stefania, oppure dovrebbe prendere e andare, non so, alle Bahamas, perché adesso, Renzi adesso basta. Sì, adesso vogliamo che gli italiani dicano la sua, adesso probabilmente il voto è sacro, però va bene tutto, io non entro nel merito delle scelte di chi ha votato sì, di chi ha votato no, però è andato avanti 4 anni praticamente senza chiedere a nessuno se non all'ultimo europeo, perché quelle non dipendevano da lui, e adesso improvvisamente diventa centrale il diritto di voto degli italiani, il diritto di esprimersi, andiamo subito alle urne perché gli italiani devono decidere. Questo un pochettino perplessa. E vabbè, ma altrimenti cosa facciamo? Un altro governo, mettiamo Padoan, stiamo no, lì? No, per carità, allora ieri Alfano ha detto una cosa che era un po' azzardata, però sarebbe molto bella, cioè magari fare anche in poche settimane, cercare di sistemare la legge elettorale non sarebbe male, visto che se ne parla ormai da anni. Mi rendo conto che sembra lo so, è come le province. Sì, in poche settimane la legge elettorale. Vabbè, però, poi signori, facciamo di necessità virtù. E poi signori, c'è Mariona Dinolfi, c'è lui, c'è il suo popolo, ci sono... Dai, facciamolo sentire, dai, il tuo amato Don Livio Fanzaga, mitico, mitico. Tu lo sai che Don Livio, glielo dice a Padre Livio che mi lancia il file di rassegna stampa tutte le volte, lo sa Padre Livio, che così mi guadagno il paradiso, se glielo dici. Oh, il paradiso, no, ci vieni? No. Devi fare molta strada, Milan. Su questo non c'è dubbio, ma voglio dire, Don Livio ha fatto una bellissima cosa, che è la mia sigletta della rassegna stampa, quando dice non c'è niente di più divertente che leggere i giornali, io lo utilizzo così. Se vuoi te la faccio sentire, guarda, questa non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. E questa è la mia sigla di rassegna stampa da non so quanto, ma tu gliel'hai detta, Padre Livio? Grande Padre Livio, ma vuole dire... Padre Livio sa tutto, sa Padre tutto, Livio, perché certo, lui non ha bisogno di ascoltare, lui sente. Che Radio Maria, nonostante i milioni di ascoltatori, non vende neanche uno spot, perché certo. Radio che vive del Signore. Comunque, Don Livio Fanzaga ha detto, che è un po' quello che dice anche Mariona Dinolfi, codesta frase: sono state fatte leggi, come quella delle unioni civili, alle quali la maggioranza del popolo italiano era contraria. E di questo gli italiani si sono ricordati, specialmente i cattolici sono ricordati. Eccolo lì, giusto per votare in punta di Costituzione, caro Mariona Di Nolfi, punito per le leggi. Ma secondo te tu sei andata a votare no perché ha fatto le leggi... Ma io l'ho detto al Circo Massimo, cioè c'è un dato politico, Renzi era con me a fare il Family Day nel 2007... Aveva una connessione con un segmento importante di popolo italiano, perché per quanto sia irrilevante il voto cattolico ha ancora un suo peso, sicuramente, io ho detto davanti a 1 milione di persone al Circo Massimo, se avesse fatto quella legge avrebbe rotto questa ma ho capito, ma qui c'era la Costituzione, ma vedi che anche tu fai questi discorsi, ma c'era da discutere della Costituzione. Ma la votazione è stata di natura politica, ancora questa Costituzione, che tu pensi che un voto è fondamentale non aveste connotazioni di natura politica, ma è ovvio che è anche giusto che le quindi abbia tu di natura politica. Quindi tu alla prima occasione l'hai punito per queste leggi. Io sicuramente io sono proprio la prova, io sono stato un parlamentare renziano che ha creduto che Renzi potesse essere un pezzo del mio mondo che rompeva quegli schemi della vecchia sinistra. Dopodiché, quando Renzi, invece di rompere quegli schemi, ha pensato prevalentemente al potere e adeguarsi a alcune cose piuttosto che al retroterra politico da cui provenivamo insieme, io sono diventato un suo oppositore. Oh. E questa è una cosa, è un meccanismo che è accaduto. Che è accaduto forse per Maria Di Nolfi e forse per qualche milione di persone che non si è ritrovato più nel Renzi che diceva al Femminile 2007 altre cose completamente opposte rispetto a quelle di oggi. Capito, ma che queste valutazioni accadano non è una cosa... No, ma no, per carità, capito. Sono Stefania. Sono valutazioni che evidentemente la gente fa. L'ha punito. Comunque il discorso di prima, ha fatto banzai lui, nel senso che a un certo punto ha dato l'occasione per dire ok, adesso fate di me quello che volete. Mm. Alla fine è questo quello che ha fatto lui. Sommato personalizzando il voto del referendum e poi ribadisco sempre il discorso di prima, non per ripetermi, cioè se alla fine tu dai una occasione, che sia una, alla gente di decidere in quel caso esatto, te incassi. Allora dobbiamo andare al traffico, poi abbiamo uno spettacolare Brunetta, abbiamo uno spettacolare Bersani e ritorniamo qui tra poco. Voglio ascoltare le parole di Vincenzo De Luca dopo il referendum. Soprattutto speriamo che se ne vada Alfano, insieme a Renzi, via anche Alfano. Ragazzi, ma c'era in procinto, anche se un po' bloccata dalla Corte Costituzionale, la riforma Madia. Hanno votato no tutti gli statali. Ma dai che si va in elezioni anticipate, basta parlare. Tu ci credi che se fa una legge elettorale che va bene per tutti? Ma insomma, io bisogna lavorarci per quello, basta che tutti capiscono che non puoi... A voi la frase, non puoi mettere la camicia di forza e una pentola a pressione. Cazzo. Hai capito? Quindi, ha detto. E adesso a Matteo che gli diresti? Stai sereno. Stai sereno, mamma mia, ma veramente. Ecco, io capisco tutto, capisco le opposizioni, ma come si odiano in quello stesso partito, è una roba veramente. Di Nolfi, tu che l'hai visti da di dentro, come proprio sì. Mamma mia, uno passa, gira l'angolo, c'è lo scambetto, mamma mia, una roba pazzesca, io non metterei piede neanche con... Hai fotografato perfettamente la cosa. Si odiano. Quell'odio cattivo col sorriso finto, ma ci mettono il cianuro nel caffè, nel PD. È proprio quella roba là. Mamma mia, Stefania, non andare mai nel PD, neanche per scherzo. Quelli ti vogliono male, ti fanno i sorrisi. Scusami, ma il migliore è stato D'Alema. D'Alema ieri era un bambino felice. Sì, rideva come c'aveva il lecca-lecca, c'è una roba. Fallo sentire D'Alema che fingeva che era per la vittoria del derby. Sì, ma... esatto. Voi avete presente l'incazzoso, perennemente incazzoso D'Alema? Esatto. Eccolo qua, D'Alema. Beh, no, ci ha fatto contenti. Ma trattieni. Io oggi veramente devo dire, per me è stata una giornata bellissima, diciamo. diciamo. Pure vinto il derby, insomma. Sì, vabbè, quello, quello Marione, quello Marione, chi se ne frega il derby. No, no, ma pazzesca, pazzesca. Quanto ma si è odiano. È un pezzo anche divertente della politica. Ci sono questi tratti umani che io trovo estremamente divertenti. Interessanti, almeno, insomma. Cioè, sì, la narrazione... di tutto questo, dell'odio profondo, delle risate di D'Alema, finalmente tira fuori il sorriso perché ha ucciso. Credo di pensare che Renzi sia centrale in questo schema, certo. Forse più in questo schema che nello schema da vincente, insomma, perché lo schema politico, lo ripeto, legge proporzionale, elezioni a primavera. E chi è che ha in mano il pallino del gioco, secondo me ancora si chiama Matteo Renzi. Ma insomma, sì, è così. È uno intanto, scenario che poi analizzerai. Intanto Brunetta ieri spettacolare, ma Sky intervistato ed eccolo qua. Però Brunetta non le fa nessunissimo effetto festeggiare insieme, ecco, diciamo così, a D'Alema. E perché dovrei? Essere nello stesso gruppo di festeggianti. E perché dovrei? E perché dovrei? Voi... mandati in onda i film porno e non le fa nessun effetto che Sky faccia buona informazione. Guardiamo avanti, guardiamo il paese. Ma dai. No, Stefania, magari è lì che anche qualche volta le ha guardate. Brunetta, sto dicendo per saperlo, so. Evidentemente deve averli visti. Vabbè, però. Dai, tutti sanno che sulla piattaforma Sky c'è anche l'offerta a luci rosse. E poi io arrivo al 311. Basta, al 311. Guarda lo Stefania Cavallaro, è 311. Poi è Marione, tu Marione al 301, perché sono i film. No, io c'ho 407, ci sono History Channel. History Channel, sì, chiaro. E Sara Varetto, direttore, che si arrabbia un pochettino, credo. Senti un po'. Renato Brunetta, buonasera, sono Sara Varetto, mi sente, le voglio fare una domanda. Eccomi, ecco. Direttore, buongiorno. La rassicuro che Sky TG24 i film porno non li manda in onda, su questo posso garantire come direttore. No, no, non ma Sky a parte TG24, la battuta, no, ma lo so, parlo è una di battuta. Sky, parlo di Sky, parlo la battuta rete, era. Parlo, era, no, era una battuta. Io le voglio era chiedere. Poi tu, siccome ha le provocazioni, no, tu certo, contraddici Brunetta, è la cosa peggiore al mondo, perché se contraddici Brunetta poi entra in loop e basta. No, tra le mani. E non vincerai mai contro Brunetta, mai, perché può andare avanti un quarto d'ora. Tu quanto guadagni, Adinolfi? Quanto guadagni? Abbastanza, quanto guadagni? Quanto guadagni? Ma non è una commedia umana meravigliosa, ragazzi. Guarda, è una commedia umana straordinaria. Ma questo aspetto, cioè, sono che, d'accordo con che te. Che non mi appassiona è che i tratti proprio di questi personaggi sono straordinari. Ma guarda, su questo sono d'accordo. Un politico al mondo che vi regala questa gioia, infatti noi al mattino alle 6:30 ne stiamo parlando. Ma infatti questa notte alle 2:00 ci sarà la replica di 8:30 che c'è gente che ancora guarda. Ma no, ma infatti questa è divertente, però niente tecnicismi sulla legge elettorale, quelli li lasciamo a Zagrebelsky, dai. Quelli li lasciamo a Zagrebelsky. Allora, però voglio chiudere con questa notizia. Succede questo, c'è un premier al quale la moglie ha detto o me o il potere, o scegli me o il potere, e questo premier si è dimesso. Succede, cara Stefania, in Nuova Zelanda. In mezzo alle pecore. No, il premier John Key, cioè la moglie, gli ha detto o ti dimetti o mi perdi. E lui all'apice del potere, per un altro che donne sottomesse, Marione? Altro che donne. E infatti la Nuova Zelanda è esattamente agli antipodi dell'Italia. Dal punto di vista geografico, cioè, questo spiega bene. È un'Italia rovesciata, tra l'altro, dal punto di vista della conformazione geografica, esattamente agli antipodi. Quindi vuol dire che è proprio tutto un altro mondo. È tutto un altro mondo, sì. E in questo c'è già un tuo giudizio, ho capito, già negativo. Negativo. Va bene, devo salutare Marione Adinolfi, Stefania Cavallaro, vi ringrazio Stefania, il caffè è pagato, non ti preoccupare, arrivo presto, grazie, ciao. Il segnale orario vi è offerto da Wafferlago. Wafferlago, dolci emozioni italiane. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta... Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli